Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Alessandro Baricco ha abituato i suoi lettori ad una scrittura capace di creare atmosfere surreali, storie rarefatte, dove lo spazio e il tempo sono soggiogati dalla potenza delle emozioni. Una scrittura ricercata e seduttiva, che strizza l'occhio all'estetica, ma anche all'anima, e che non gli ha risparmiato severi moniti rimandati al mittente dallo stesso Baricco da parte di altri nomi della critica italiana. A suo tempo Giulio Ferroni lo ha definito uno scrittore alla moda, parlando del suo successo come di un trionfo del Made in Italy, non certo della letteratura. Le schermaglie con i critici non hanno intaccato di molto l'amore che i lettori hanno nei confronti di Baricco, che continua a scrivere e a sedurre con i suoi libri. L'ultimo è Tre volte all'alba, quasi uno spin-off del libro Mr. Gwynne uscito 4 mesi fa, dove il protagonista citava il titolo di un fantomatico romanzo che ora si è palesato in libreria. Tre volte all'alba è composto da tre brevi racconti di tre incontri che avvengono nella hall dello stesso albergo, sempre all'alba, tra due persone che incrociano le loro vite in momenti diversi, in età diverse. Eccolo Baricco, non si smentisce, la sua scrittura crea l'idea di due persone, più che le persone stesse. I riferimenti con la realtà contingente sono le loro vicende, da dove arrivano dolori, speranze, fiducia. Il resto è ovattato, le voci arrivano da lontano, giungono fino al lettore per poi tornare indietro, lasciandogli sensazioni quasi indefinibili. Il lettore arriva alla fine, chiude il libro e ha per un attimo la sensazione che esso debba smaterializzarsi e sparire nella magia di un tempo inesistente. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.